bello cielo alle stelle. Ed olezzava la terra, stride all'uscio dell'orto. E un passo sfiorava la rena. Entrava ella fragrante. Oh!